tutte e a tutti, agli ascoltatori e ascoltatrici della radio. Come sapete, oggi era stato convocato il presidio qui a Piazza Le Coglie perché inizia il processo per 25 tra compagni e compagni che sono stati accusati. Tra le altre, diciamo, capi di imputazione c'è anche quello di devastazione e saccheggio per la manifestazione del 15 ottobre del 2011. Chiaramente, insomma, l'appuntamento è stato per fortuna molto sentito, perché già adesso, diciamo, a mezz'ora insomma dalla convocazione, siamo già in molte e molti, con moltissimi striscioni attaccati lungo i palazzi qui a Piazza Le Clodie. L'atmosfera è abbastanza tranquilla, devo dire non c'è neanche troppa presenza di forze dell'ordine, nonostante appunto sia un processo molto particolare che coinvolge tra l'altro imputati da tutta Italia, da Roma, da Genova, da Cosenza e da Padova. Hanno cercato di costruire in qualche modo, come è successo anche per Genova nel 2001, di costruire un filo rosso insieme tra persone che hanno partecipato alla stessa manifestazione, criminalizzando fondamentalmente quella giornata come una giornata appunto in cui i simplex blocchi di Piazza sono scesi in piazza e hanno devastato insomma la città di Roma. Vi posso dire che l'udienza è iniziata già, è l'udienza era forse chiusa, è già iniziata, inizierà prestissimo e chiaramente bisognerà poi aspettare le impressioni chi era presente in aula, degli avvocati, degli avvocati che sono presenti in aula, per capire anche un po' l'aria antistira rispetto alla questione processuale. Quello che è importante è che si sta costruendo una rete tra le imputate e gli imputati, quindi una relazione, come dire, anche di solidarietà tra le persone che sono coinvolte, cosa non scontata, perché come sappiamo forse su questi processi di Genova si hanno gli ha amaramente insegnato gli errori che non vanno ripetuti, insomma c'è voglia anche di discutere non solo del reato di devastazione e saccheggio, ma anche di quella che è la fase insomma repressiva nella quale stiamo vivendo e che si inserisce in un contesto più generale, insomma, di chiusura degli spazi, delle unità, di chiusura dei momenti insomma di pace, di discussione e Sara, scusami un secondo. Sì. Sara, devi parlare vicino al microfono del telefono, altrimenti non si capisce nulla. Sì. Scusaci. Si sente? Se non stai vicino al telefono, no. Vai. Adesso ti sento meglio? Direi, eh. Sì, sì. Sì, si sente molto meglio, grazie. Ok. E quindi c'è appunto questo elemento che sicuramente ci fa ben sperare, no? Rispetto appunto a quella che è l'attivazione anche delle persone intorno a un tema che non è scontato, perché solo quando si fa parlare di repressione non è un elemento, come dire, che crea particolare insomma aggregazione. Bisogna capire che stiamo vivendo in una fase in cui sempre di più si tenderà a prevenire e a reprimere comportamenti considerati diciamo anomali, da quelli di piazza a quelli più quotidiani, come possono essere appunto le scelte che si fanno nella propria vita quotidiana, le necessità che vanno affrontate, quindi i bisogni che vanno un po' ripresi da parte di tutte e tutti. Immaginiamo la casa, immaginiamo i trasporti pubblici, immaginiamo le campagne che un po' in tutta Italia si stanno facendo sulla riappropriazione proprio di determinati pezzi del reddito che ci stanno togliendo. Ecco, questa è un po' come dire la necessità che si era data rispetto a questa giornata e per il momento insomma, mi sembra che la partecipazione sia abbastanza forte. Naturalmente l'invito che arriva dalla piazza è quello di raggiungere qui le persone, anche per dare un segnale insomma a chi si trova in questo processo imputato o imputata, ma anche per dare un segnale insomma a chi sta dentro, quindi ai giudici e alla magistratura che hanno chiuso le indagini da poco. Perfetto. Sì, no, vi volevo anche dire un'altra cosa, che qui in contemporanea stanno facendo anche un presidio chiaramente a Teramo, perché lo ricordiamo c'è la situazione particolare di Davide Rossi, il compagno di Teramo, che è stato già tradotto ai domiciliari, ora spostato in carcere per una questione legata appunto al tribunale di libertà, e che era stato accusato anche lui di dilazione, saccheggio e resistenza sempre per la manifestazione del 15 ottobre. Ci sarà un'udienza del tribunale del riesame per lui l'11 aprile prossimo, anche per quel giorno è stato deciso il 6 luglio. E contemporanea anche a Genova, proprio in solidarietà con tutti gli altri imputati, si è organizzato questa mattina un presidio davanti al tribunale, quindi se avete occasione insomma di riuscire a mettervi in contatto anche con loro, perché la situazione in particolare del compagno di Genova è molto seria, nel senso che si trova già in carcere, quindi arriverebbe questa seconda seconda imputazione che in qualche modo aggrava anche la sua condizione di persona che è già detenuta in questo momento.